E buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima, sono le ore 21 e noi siamo come ogni lunedì insieme a voi con la nostra trasmissione che come sapete ci accompagna dalle 21 alle 22, ogni volta trattando di un argomento di tipo diverso. E prima di presentare però l'argomento io vorrei cominciare col salutare Anna Maria. Anna Maria, che non sento. Riproviamo? No, non è questo. Vediamo adesso. Mi senti? Ecco, adesso sì. Sì, Allora, insomma, qui non buonasera a si impara mai con i tutti. microfoni. Mamma mia. È lunedì, siamo stanchi. No, vabbè, dai, che siamo stanchi già da lunedì. Dovremmo Certo, essere siamo freschi. stanchi del weekend. Vabbè. Allora, quindi buonasera ad Anna Maria, come stai? Bene, bene, tu come stai? Bene, oggi 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, in vacanza in Italia, ma si è Non qua. lavorato in Belgio e però in realtà non molti hanno lavorato perché c'è stato lo sciopero generale, E anzi chi ha lo cercato di sciopero lavorare non c'è riuscito come sempre c'è riuscito. Va bene, poi l'altra ospite che ci accompagna spesso, che è Fiorella. Buonasera Fiorella. Come Buonasera a voi e grazie. stai? Io bene, sono tornata da una Roma assolata, troppo caldo, avevo voglia di nevischio, neve e un po' di freddino. Non ci crede nessuno. Eh sì, perché io sono nata in pieno inverno, adoro l'inverno e quando è troppo Non è mai troppo. ma sotto Natale mi piace avere un po' di freddino, vedo. Mi sembrava quasi di essere a un certo punto, non lo so, ho pensato, io ho sempre pensato, non so, gli australiani com'è che fanno a passare il Natale, sai, sotto le palme, in spiaggia. Te lo L'hai dico fatto? io quando ero piccola in Africa la neve non c'era. Il Natale era bello lo stesso, te lo assicuro. Sì, però vabbè, a me Lo piace la passavamo in montagna. piscina. Ecco, mi sono sentita come un'australiana a Roma. Dunque no, sono forse più tradizionalista, mi è piaciuto ritornare qui col nevischio. Sono partita da una Roma di sera, erano 22-23 gradi a Fiumicino, sono arrivata la neve, l'unica piccola nevischiata che ha fatto a Zaventem martedì E scorso. penso che sia stata localizzata perché io non l'ho vista questa L'hanno neve. fatta per me, L'hanno fatta per te perché non perché ne avevo sapevano che abbastanza, rientravi. ne avevo abbastanza di caldo, mi ero meritata un pochettino di neve. Allora, io vorrei anche solo far salutare per adesso, poi vediamo se vogliono anche intervenire ulteriormente, tre mie compagnucce di scuola del liceo scientifico che, come molti italiani, sono venute qua in Belgio in questo lungo ponte dell'Immacolata e infatti questi giorni andando in giro per il Belgio, per Bruxelles, siamo andati a Bruges oggi, si sentivano solo italiani, sembrava che solo gli italiani erano in vacanza e quindi anche loro, in mezzo a questa grande massa di italiani che sono usciti, sono venute a trovarmi e così, intanto dico loro se vogliono salutare, comincerei con Rita. Buonasera a tutti e Rosanna ci ha fatto questa sorpresa, nella sorpresa di proiettarci qui in un ambiente che noi non abbiamo mai visto e la ringraziamo ancora anche per questa esperienza. Grazie a voi, lo sai che mi ha fatto molto piacere la vostra venuta. Poi passo a Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao Rosanna, buonasera a tutti, sono molto felice di vivere questa esperienza insieme alle mie amiche del liceo che adoro e con le quali trascorro gli anni, ho trascorso e continuo a trascorrere degli anni bellissimi, grazie. Grazie. Allora, Patrizia aveva detto che avrebbe detto solo buonasera a tutti, quindi già è andata Secondo me mi oltre. sono allargata, Il sì. fascino della Sì, il radio. fascino, ecco. E poi Rosaria per finire. Ciao Rosaria. Salve, sono Rosaria. Sono felicissima di stare qui. Era un sogno, ho sognato, si è avverato e sono contentissima. Va bene, allora grazie anche a te Rosaria di essere venuta. E allora io diciamo vorrei anticipare, poi appunto lo svilupperemo nel corso della trasmissione, l'argomento di oggi e ho preso qualche brano da un articolo che ho trovato e può manifestarsi in qualsiasi ceto, scavalcare convenzioni e barriere culturali. Naturalmente questa è una descrizione che potrebbe. riguardare molti, molti aspetti. E che cos'è? È il bullismo, che oggi è un fenomeno sociale che va affrontato col dialogo e soprattutto con l'ascolto, perché alla base di questo malessere c'è sempre un problema di cattiva comunicazione e di relazioni deviate. E l'articolo, il titolo dell'articolo di due giornalisti che si chiamano Ada e Carlotta Fonzi è «C'è un bullo in ognuno di noi». Forse sarà così che in ognuno di noi, magari senza volerlo, senza saperlo, in qualche modo può darsi che se la prende con qualcuno. Probabilmente che, sì. Se è più debole. Sì. Più debole, o comunque penso che ognuno di noi ha bisogno qualche volta di affermarsi in una maniera o in un'altra, e qualche volta usiamo magari delle maniere un po' più aggressive rispetto a... Sì. Si dimentica la cortesia, la gentilezza e paf, perché ho bisogno di affermarmi. Sì. Quindi penso che tutti abbiamo qualche atteggiamento un po' prepotente, chiamiamolo. Ecco, lo chiamiamo prepotente. Io penso che il bullo sia un po' più spinto, forse. Sia anche un atteggiamento un po' diventato un po' cronico anche, no? Invece un pochettino, come dicevi tu, la prepotenza, beh sì, ecco, voilà, forse è questo. Forse c'è sempre stato il bullismo, adesso ne parliamo di più, però prepotenti ce ne sono sempre stati. Forse chi è il più prepotente, il più arrogante, sì. Prepotente, il bullo però io penso che ci sia un'altra valenza, cioè ci sia la valenza della violenza. A volte il prepotente lo fai solamente con le parole, il bullo passa delle manifestazioni anche un po' estreme, non lo so se poi invece è stato, come dire, una terminologia che abbiamo cambiato nel corso del tempo e abbiamo dato un connotato di violenza al bullismo. Probabilmente, perché del bullo se ne è sempre parlato. Sì. Mi ricordo mio papà che raccontava delle cose allucinanti. Mio papà forse era un bullo, non lo so, perché non era proprio l'angelo della classe, quindi... No, ma sempre in questo articolo si dice che la figura del bulletto, già descritta nel 1886 da Edmondo De Amicis nel libro Cuore, diceva appunto... quando uno piange, ride, che provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa pugni si inferocisce e tira a far male. Ecco, questa descrizione, secondo questi Ada e Carlotta Fonzi, non potrebbe più essere lontana dall'attualità, perché la prepotenza di questo giovane Franti, questo era il nome di questo bulletto di Amicis, sembrava quasi connaturata ad un degrado economico circoscritto, pertanto in un certo senso più accettabile, forse meno terrificante. Oggi invece il bullismo non guarda più in faccia a educazione, sesso, conto in banca o quartiere residenziale. Tra i banchi di scuola, la prevaricazione sistematica verso un singolo si è fatta espressione trasversale di un cambiamento che coinvolge non solo vittima e carnefice, ma l'intera società. E quindi, insomma, il bullismo, forse, ecco, ne parliamo di più oggi probabilmente, gli abbiamo dato anche un nome, sicuramente De Amicis non credo che avesse coniato questo termine, deve essere stato coniato più tardi, però insomma se ne sente parlare, se non nei confronti dei propri figli o diciamo dei ragazzi che ci sono vicini, ma ne abbiamo sentito parlare da persone che conosciamo, da nostri parenti, quindi in un modo o nell'altro ci riguarda. Sì, penso che forse anche ne parliamo, anche perché, come diceva l'articolo, a volte prima l'abbiamo sempre associato a delle situazioni sociali, no? Cioè lui, quello è povero, eccetera, eccetera, e quasi è normale che diventi bullo, no? Poi invece abbiamo visto che il bullismo è dappertutto, dunque non è più legato a un'appartenenza sociale, a una tipologia. Come dicevo, all'inizio tutti possiamo essere bulli e ce lo troviamo in situazioni che non ci possiamo, che a volte non pensavamo di aspettarci. Ti faccio l'esempio personale, vogliamo andare sul personale così? Guarda, io tra l'altro vi ringrazio molto di avermi invitato a questa trasmissione, quando mi avete detto di cosa avremmo parlato ho ripensato alcune situazioni, ho rivisto anche il mio atteggiamento e ciò che alcune situazioni possono portare. Alcuni anni fa, con il nostro primo genito, quando eravamo a Vienna, era al liceo francese di Vienna, un liceo tra l'altro abbastanza esclusivo, con 180 nazionalità, dunque diciamo, come dire, possiamo dire ben frequentato, eh? Diciamo un pochettino questo. Dunque avevamo il nostro figlio, il primo giorno, piccolino, magrolino, mingherino, adesso ha due spalle. E il secondo anno, a parte che noi venivamo da Lubiana, dunque avevamo sempre in giro per l'Europa, dunque c'era anche questo riadattarsi a una lingua straniera, tanto che mio figlio, mi ricordo, i primi mesi faceva la fila, quella di ricreazione, perché c'era una cabina telefonica dentro la scuola e mi chiamava alle 10:30 perché non sapeva con chi parlare. Poi piano piano è entrato nel coso e ero tutta contenta. Il secondo anno invece ha iniziato a avere a un certo punto degli incubi notturni, dicendo lasciatemi, e non voleva andare a scuola, non voleva. Io entravo dentro scuola perché si poteva entrare e vedevo che aveva un pochettino la faccia impaurita. Ma sai, queste sono, poi sono cose che uno fa, io lì per lì non me ne sono accorta, sono cose che a cui io poi sono andata a rivedere, cioè, non gli ho dato importanza, ma forse non ne ho neanche. E un giorno ricevo una telefonata di una signora, di una mamma, quasi piangendo, una mamma austriaca, mi dice: signora, io mi scuso e mi vergogno moltissimo per quello che ha fatto mio figlio a suo figlio. Io dico: scusi, che cosa ha fatto? Dice, io mi vergogno veramente. Ci ho messo molto tempo per farmelo dire in poche parole. Mio figlio era stato pestato varie volte, 4 bambini lo prendevano, 2 lo facevano la guardia, e gli altri 2, boom, a botte, nello stomaco e tutto quanto. A quel punto sono caduta dalle nuvole, ho chiesto a mio figlio, lui mi ha detto: mamma, soprattutto, fra le lacrime, perché non voleva neanche dirlo, mamma, soprattutto non dire niente, perché sennò mi pestano ancora di più. Dunque c'è anche il fatto, lì si intromette un qualche cosa, io come genitore che cosa posso fare? Perché tu naturalmente la prima cosa che puoi fare è andare lì e spaccare tutto. Però c'hai anche la faccia di tuo figlio, perché tu poi dici: ma questo deve stare tutto il giorno a scuola, io posso, certo, andare lì, spaccargli la faccia, ma poi gliela spaccano 10 volte, cioè c'è anche questa cosa qui. Dunque mi ripresento dalla direttrice sperando di avere, diciamo, un contatto positivo, dicendo: guarda, e la cosa che mi ha molto stupito è che lei era a conoscenza di tutta la faccenda. Allora, perché non mi ha detto niente? Perché lei mi ha risposto, in fin dei conti, era tutto sotto controllo, non era vero niente. È una cosa fra ragazzi, e questo ricorda di Rosanna, che riprendiamo questo discorso, una cosa fra ragazzi, perché è abbastanza, ma lei aveva tenuto, in fin dei conti, ci aveva tenuto a mantenere alto il nome del liceo e non divulgare delle cose del genere. Cosa è successo? Che con molta pazienza con mio figlio abbiamo iniziato a dire, abbiamo parlato con i genitori dei ragazzi, perché a questo punto ho visto che la scuola non mi dava nessuna mano, anzi era pronta a insabbiare tutto. Per fortuna devo dire che ho trovato dalla parte di 2 genitori del gruppo dei bulli molta comprensione. Dunque, meno male, perché gli erano dati di santa ragione, 2, e dunque abbiamo fatto una specie di, come dire, di reso, di, come si dice, di, ci siamo tenute sempre in contatto. Sì. E scusami, questi genitori dei bulli, come ne avevano saputo? Ma perché, questo perché io poi ho chiamato gli altri 2, ma io l'ho saputo perché uno di questi bulletti aveva parlato con la mamma. Dunque è la mamma che ha fatto scaturire tutto, perché si è vergognata dal comportamento del figlio. Ringraziando il cielo c'era una coscienza in quella famiglia. Cosa è successo? Certo, la cosa non è andata a sciamare, perché mio figlio aveva sempre paura che io intervenissi e tutto quanto. Diciamo che alla fine dell'anno scolastico questo ragazzo che aveva menato veramente, che era il peggiore, perché poi tra l'altro era un ragazzo che veniva sempre marginato dalla scuola, perché dice che era violento, che era quello. Quindi lo sapevano già. Lo sapevano già. Che aveva già questi atteggiamenti. Che avevano, sì, ecco, forse anche per questo la mamma lo teneva d'occhio. Dunque la mamma non ha, cioè dice sì, mio figlio è un po' così. Morale della favola, mio figlio poi nel secondo anno è stato protetto dagli altri bulli, da quest'altro qui. Dunque cose molto assurdo. Il secondo anno c'è stato un altro, sempre verso mio figlio, c'è stato un altro caso di bullismo. Per fortuna era l'ultimo anno che rimaneva a Vienna, perché mio figlio dice: non ce la faccio più, voglio partire, voglio andare su Bruxelles. A quel punto sono intervenuta io. Mio figlio mi ha detto: cioè, non ti... questo era ancora più grosso di quell'altro, perciò pensa un po'. E niente, a quel punto ho fatto veramente la mamma che non me ne frega niente, l'ho beccato fuori dalla scuola, gli ho fatto: senti, io so che tu minacci mio figlio, ma lei che cosa mi può fare? Dico, che ti posso fare? Dico, da qua a casa sono a 500 metri, te li faccio fare a calci nel sedere a due fin quando non diventano dispari, poco ma è sicuro, e in più lo dico ai tuoi genitori. Lei non mi può minacciare, ma io infatti non ti sto minacciando, io ti sto dicendo quello che ti sta accadendo. Ecco, mio figlio in lacrime in macchina dicendo: mamma, non gli dire queste cose perché sennò mi gonfia di botte. Se gonfia di botte a te, tu esci e io gonfio di botte a lui. Cioè, scusate, non è forse una forma pedagogica quello che ti pare, però non l'ha toccato. Certo. Non l'ha toccato, però come sono arrivata a casa io ho telefonato ai suoi genitori: ah, ma no, non è vero, io ho fatto, guardate, non è vero, però se vedete vostro figlio venire a casa con la faccia gonfia, sono io. Dunque, a quel punto l'ho stoppata la faccia, non è molto pedagogica questo, però ha funzionato. No, anche perché poi, sai, poi in fin dei conti entri in crisi anche come genitore, perché tu dici: ma io non ho potuto fare niente, perché io... Poi io venivo, loro lo sanno, da un'esperienza di profughi bosniaci. Io avevo difeso con la mia persona, con la mia immagine, 1000 bambini bosniaci, dico, e io dico: non riesco a difendere i miei figli. Certo. Dico: ma che vergogna sono, dico, non sono un esempio. Dico, mi ha fatto entrare molto in crisi, questo sì. Dunque è stato una... Poi siamo venuti qua a Bruxelles e abbiamo avuto invece un tipo di bullismo all'incontrario con i professori, cioè che sfottevano l'altro bambino, l'altro Simon, perché era molto più tranquillo. Non penso che lui abbia avuto casi di bullismo perché era ben piazzato, dunque... Più che altro ha avuto... Prima parlavamo con le tue amiche che cos'era il bullismo, cioè... quello del se è solamente riservato a dei giovani, cioè un atteggiamento negativo fra giovani, oppure io penso di poterlo elargire, di allargarlo anche a un atteggiamento. Il bullo chi è? Il bullo in fin dei conti è una persona o qualcuno che se la prende con un'altra persona in stato di inferiorità, che sia di età, che sia fisico, però sempre bullo, eh? Il bullo è colui che vuole fare il bravo, giusto? Io nel secondo caso l'ho avuto con dei professori che facevano veramente i bulli con i ragazzi. E anche lì gli altri professori sapevano, ma nessuno ha detto niente. Allora a questo punto mi rifaccio anche una domanda. Quando ci sono tutti quei casi di maestre che fanno del male ai bambini, eccetera, eccetera, ma com'è che poi quando si va a intervistare la direttrice non sa niente, le altre maestre non sanno Beh, niente? Qui però credo che siamo a un livello diverso, non parliamo più di bullismo, qui parliamo di violenza, di abuso, sono cose diverse, non lo metterei nello stesso... No, però come l'altra professore, la direttrice era, non ha voluto dire niente, eh? Cioè c'è sempre questa... Certo. Quello che mi sconvolge è il fatto di questa omertà generale, cioè che sia una direttrice, che sia una professoresse, che lo chiami bullismo, che lo chiami violenza, ah sì, è un gioco da ragazzi. Come ti ricordi? Ah, dicevi, scusami. Oh, non dicevo niente, volevo solo fare una piccola pausa musicale, quindi riprendiamo subito dopo. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi. Io spero di riuscire a mandare i brani musicali, perché stasera non mi riesce. Non ce la fai. Se no cantiamo noi. Cantiamo, dai. Il coro c'è. Siamo tante. Mo ci provo. Se non va... conterò su di voi. Un mazzolino di fiori la sappiamo. Qualcos'altro ce lo inventiamo. Sì. Allora, eccoci di nuovo dopo la pausa musicale a chiacchierare ancora di bullismo, che è il tema dell'argomento di oggi. Poi naturalmente chiederò alle mie assistenti il colore che avete associato, ma pensateci, non me lo dite adesso, me lo direte dopo, alle mie speaker. Dunque, prima di ridare la parola a Fiorella, che appunto stava, diciamo, parlando della sua esperienza personale e quindi anche un po' allargando il discorso, sempre in questo articolo di queste donne che si chiamano Ada e Carlotta. Roberta Fonsi, che hanno scritto appunto dei libri sul tema del bullismo, come il bullismo in Italia, Abbasso i bulli, eccetera. Ecco, il fenomeno del bullismo è un fenomeno di cui ovviamente non si è sempre parlato. Le prime ricerche sul bullismo risalgono agli anni 70 e i paesi dove se ne è cominciato a parlare sono stati la Norvegia e l'Inghilterra, che l'hanno riconosciuto come fenomeno, mentre in Italia gli studi partirono nel 94, quindi sono 20 anni, e sono stati fatti alcuni studi con delle università. E quindi da qui in poi se ne parla sempre di più, ed è ovvio che proprio perché se ne parla forse uno ha anche l'impressione che magari sia aumentato, non lo so, come molte altre cose siamo un po' condizionati anche dalla comunicazione. Comunque, come dicevamo prima, se in passato era appannaggio di poveri e diseredati di sesso maschile, oggi con lo sviluppo delle tecnologie e dei mezzi di informazione il bullismo non è più legato al censo o al genere dell'individuo, e rispetto agli anni 90 infatti si sono fatte avanti anche le bulle, in più complice il rapporto della rete internet è nato il cyberbullismo, termine che sottintende una serie di molestie effettuate tramite mezzi elettronici come email, blog, telefoni cellulari e siti web. E quale fenomeno in continua trasformazione, il bullismo dipende da una molteplicità di fattori. Per questo non c'è da stupirsi se in una stessa scuola coesistono classi in cui è emerso e altre che non ne sono colpite. Allora, Fiorella, tu sì, appunto parlavi di, diciamo, dei genitori, che nel tuo caso i genitori dei bulli per fortuna sono stati, diciamo così, dalla tua parte e quindi hanno aiutato a eradicarlo, a rimuovere il problema che si era creato. Però non soprattutto così. Soprattutto a metterlo in luce, perché altrimenti sarebbe stato un problema mai visto. Sì, come dici tu, perché loro molto ovviamente avevano una coscienza. Se invece rivediamo alcuni casi, prima ne parlavamo, ti ricordi di questo ragazzo 12enne, un po' picciocciottello, nella provincia di Napoli, preso di mira da alcuni suoi compagni, da alcuni ragazzi, per cui hanno messo un tubo che andava nello stomaco e l'hanno gonfiato. Dunque, una cosa assurda, io non so dove che possa arrivare una cosa del genere. Quello che mi ha scioccato ancora di più è quando la televisione è andata a parlare con la famiglia di questi ragazzi, una signora appartenente appunto alla famiglia di questi ragazzi ha detto: vabbè, ma cosa volete? Sono giochi di ragazzi. Cioè, ma non è possibile una cosa del genere. Beh, ma cioè, mettere un tubo già ti fa capire da che tipo di ambiente venivano, nel senso che se tutto viene tollerato, se già l'adulto tollera, non può insegnare al bambino. Allora, no, che tipo di ambiente, cioè da l'educazione sì, ma questo ecco. intendevo sì, l'ambiente familiare, cioè il contesto familiare, il contesto che vivono questi ragazzi, se loro hanno questo tipo di attitudini che un po' possono essere prepotenti di natura, carattere, tutto quello che si vuole, ma è ovvio che riproducono ciò che vedono in casa. Ho capito, sì, questo non ci sono problemi, però di fronte a una forma talmente estrema di violenza, dire è un gioco di ragazzi, cioè io posso dire un gioco di ragazzi il ragazzino che va da un altro ragazzino e gli buca o gli rompe una bicicletta, va bene? O che fa scazzottate, vabbè, non lo ammetto, però è un gioco di ragazzi. Ma tre adolescenti, anzi erano più che adolescenti, mettono un tubo nel dietro di un bambino e tu, mamma o genitore, mi dici è un gioco assurdo, di ragazzi. È ovvio, è assurdo. Cioè, è questo, che non si ha più il limite alla violenza. No, non c'è più, come dire, io penso che non stiamo andando verso una società per cui colpisci per primo perché sei il più forte, no? Ci sono molti genitori credo sia un po' diverso, onestamente. Io penso più che altro non colpisci per primo perché devi essere il migliore, semplicemente che se non si dà più sufficiente importanza agli atti. cioè una cosa grave oggi non è più considerata tale, non è punibile, sì, e quindi è questo il problema. Ma questo è un problema un po' non soltanto nelle scuole, un po' dappertutto, dappertutto, e dappertutto. Diciamo che anche il fatto di la violenza la vediamo tutti i giorni, guardiamo la TV, sì. Cioè noi siamo cresciuti con Heidi, oggi i nostri ragazzi, ragazzini crescono con altre cose. Sì, anche noi avevamo delle cose un po' più violente, però insomma io ricordo che al massimo avevamo Goldrick. Siamo della generazione di Goldrick, esatto, cioè, avevamo questi personaggi Heidi che pure vivevano delle cose drammaticissime, però oggi, oggi la violenza fa parte del gioco, cioè gli atti... che c'erano anche allora, che c'erano anche prima, ci sono sempre stati, ma forse oggi con il fatto che tutto il cyber, appunto il cyberbullismo, ha preso talmente tanta ampiezza che forse non si fa più attenzione, non si capisce più dov'è la realtà e dov'è la finzione. No, e poi non c'è più controllo. Vedo che dicono sì, però sostenetemi. La percezione che hai dell'altro, ecco, secondo me. Se non c'è tu la più. Percezione non ce l'hai dell'altro, non ti accorgi nemmeno della sua sofferenza, della sua, ecco, questo, del infatti, suo dolore, della sua emotività. Secondo me è questo. Poi ci sono tante sfaccettature. Secondo me il bullismo c'è sempre stato, la prepotenza. Forse l'aspetto diverso oggi è questo. Il fatto è che come se quella figura non ci fosse per te, come un'immagine. Sì, esatto. Io sono sicura che quei genitori che hanno detto così, se vedono c'è posta per te, piangono. Io ne sono sicura, sono certa. Cioè il dolore è una finzione, è una cosa scenica, però tu la percezione dell'emotività, non senti l'altro è un'immagine, esatto. All'altro, allora tu puoi fare quello che vuoi. Poi è come un gioco, è tutto virtuale, è virtuale anche la sofferenza dell'altro, se parliamo, cioè quindi tu non hai per esempio la percezione della sofferenza che hai mettendo nero su bianco un'intera conversazione di due adolescenti. Adesso mi viene in mente una cosa che raccontavo a Rosanna, cioè due adolescenti che litigano e discutono come tanti, come abbiamo fatto come tutti noi, entrano in un gruppo e qualcuno riferisce la loro conversazione che era privata su un intero gruppo, certo. e la radicalizza, la ferma per sempre, perché quello poteva essere un episodio marginale. Certo. Invece una volta che tutti sono a conoscenza diventa un peso, certo. Diventano parole scritte, oppure non lo so, le foto che girano, e in fondo è una foto, che cos'è? Però è una foto di reggiseno, è una foto, certo. Oppure una, cioè, foto con circoscritta a due persone può essere bullismo, sì. Classico, diciamo così. Prepotenza. Tutto quello che prepotenza. Vedi. Prepotenza. Sì, e invece una volta che viene pubblicato e che tutti sono al corrente, lì molto più grave. Ma perché si vuole dare? Io non so se non sia la percezione di ciò che si fa. Al contrario, quando si mette in rete si può dare molta più... dai visibilità. Però è l'emozione che è il sentimento che ma manca. C'è un sentimento dietro, il sentimento di come dire, di derisione verso qui sto mischiando francese e inglese verso qualcun altro. Dammi un calcio, sbloccami. Mi è incartato, tu dillo in un'altra lingua che poi lo traduciamo, sì. Ormai no, ma lì mi era uscito qualche cosa, non lo so. Stavi parlando in franglais. Franklin, sì. E dunque io penso che lì si voglia dare ampiezza al proprio atto, capito? Dunque c'è un sentimento, perché in quella maniera, anzi, il tuo atto di bullismo che verrebbe relegato solamente a me e a te viene ancora più amplificato. Dunque tu acquisti importanza rispetto. Ecco, forse andiamo lì. Quali sono la scala di valori? La scala di valori è quello, sì. Di essere, che ti, sì. Posso dire, noi ci rifacciamo ai nostri tempi, no? Il più bravo a scuola, il più bravo, no, il più bravo è quello che è il più figo e quello che ha fatto più cavolate, giusto? E quello, dunque, è proprio una scala valori completamente differente. Chi è il migliore? Colui che sa affermare la propria potenza, quello che detta legge in una classe. Tu mi parlavi di bullismo al femminile, i miei figli proprio sono passati davanti a tutto, cioè li hanno visti tutti, perché ad esempio il mio primogenito qua a Polostella, una scuola europea, dunque non è neanche questione di scuole, di un certo, lì c'è un c'era un bullismo nella sua classe al femminile, si tiravano le sedie in testa. Anche questo, cioè, non lo so, è veramente una scala di valori completamente differente. Non c'è più controllo? Forse c'hanno, cioè, non è che non c'è più controllo di genitori, perché poracci, noi genitori come facciamo a stargli dietro quando questi stanno appiccicati sullo schermo del computer? Cioè, tu gli puoi dire, ci puoi stare là 10 ore, ma nel momento che tu vai al bagno, quelli zact, come faceva suor quella lì, faceva che Dio ci aiuti, no? Zact, t'hanno fregato e si mettono in comunicazione chissà con chi, giusto? E hanno fatto il danno, giusto? Ecco. Poi anche noi, diciamoci la verità, anche noi con tutti questi WhatsApp che combiniamo, capito? Noi siamo forse più ingenui, ma noi dobbiamo ma stare al passo con i tempi, sì. I tempi sono questi, adesso sì. Dobbiamo riadattarci a un altro tipo di società, un altro tipo, ma questo immagino che faccia parte dell'evoluzione dell'essere umano. Noi dobbiamo imparare a usare nuovi strumenti, esatto, usare nuovi strumenti, dargli un corpo, esatto, dargli un corpo, dargli sì. Una certa importanza e dargli dei limiti forse. Non so se ieri sera forse sono l'unica che ha visto questo programma in televisione sulla cibernetica, ciò che cosa si può arrivare, perché tu dici, vabbè, adesso stiamo parlando del bullismo, però effettivamente forse parliamo anche di vari aspetti che sono intorno al bullismo, della comunicazione sfrenata, ma anche di questa mancanza con la realtà, giusto? Perché tutto è questo che secondo me mi spaventa di più. C'era un tizio ieri sera che aveva un'antenna, perché siccome lui era daltonico, questa è una cosa, apro e chiudo la parentesi, una cosa che mi ha completamente scioccata, aveva un'antenna proprio qua in testa, una specie di sensore collegato con il computer, perché lui era daltonico dalla nascita, si era fatto installare un chip nel cervello per cui lui passava tutti i colori su questa, come dire, questo chip che gli usciva da là, dunque, e lui faceva, e gli veniva risposto il colore attraverso la musica. Pensa che confusione in testa c'è avuto. Cioè, non si sa dove. Dunque, non lo so, vabbè, questo è per buttarla un po' sullo scherzo, tra l'altro. Cioè, l'antenna gli dice che stai guardando il rosa. E il rosa, che ne so che musichetta gli davano sotto. A proposito, tanto per, diciamo, smorzare un po' la gravità, perché tra l'altro, come diciamo prima, mio figlio ci è rimasto, i miei figli sono rimasti abbastanza toccati da questa esperienza, e anche noi come genitori, perché non sappiamo come intervenire. Quelle due signore che hanno scritto l'articolo si chiamano come Fonzi, e Fonzi, ti ricordi, era il bullo. Era il bullo. Ma diciamolo. Fonzi non era proprio Epidemia. No, Happy Days, hai visto? E si chiamavano Happy Days. Allora, siccome Patrizia e Rosaria sono state un po' più zitte, volevo chiedere, no, su Rosaria non mi menare, dai, volevo chiedere, non fare la bulla. Secondo voi, così istintivamente, non ci riflettete troppo, quale colore lo possiamo associare a questo argomento, il bullismo? Puoi dire anche un colore inventato, non è che deve essere nero, giallo, rosso. O indaco. Diciamo, ma grigio perché, non nero, perché poi c'è sempre una speranza di riportare il ragazzino bullo sulla retta via, ce lo auguriamo, e quindi di rimettere un po'... Non lo vedo, però un grigetto Bruxelles, dai. Un grigetto Bruxelles. Tu, Patrizia, hai in mente un altro colore? No, va bene. Sei d'accordo col rende grigio? Rende l'idea, sì, quello è il grigio, sì, va è bene. Vero. E tu, Rita, che dici? Io anche avevo pensato al grigio, anche perché poi c'è sempre un fenomeno del genere, se lo vuoi analizzare bene lo devi vedere sia dalla parte della vittima che del carnefice, perché la vittima l'aiutiamo, gli siamo vicino. Però poi il carnefice bisogna capire perché, che comunque solitamente è un minore. Devi capire come è arrivato a quel punto, se c'è una situazione familiare, e anche in un benessere, anche in una situazione molto apparentemente serena, anzi diciamo apparentemente di classe sociale benestante, devi capire come si è sviluppato. Se lui non ha questa sensibilità, qualcuno non gliel'ha data, o lui non l'ha trasmessa, oppure c'è una patologia, c'è una violenza. Perciò ho pensato al grigio, perché siamo lì, sono in fondo al limite. Comunque due persone che una soffrirà di più, ma non credo che l'altra sia meglio. Per quello che è la mia esperienza, poi così sul lavoro, per esempio, mi è capitato di stare accanto a ragazzi che a scuola erano molto violenti, però anche se ai giorni nostri, ti dico la verità, c'era sempre una situazione di grande sofferenza familiare, proprio di un disagio forte. Venivano da un ambiente in cui o ci si affermava in quel modo o non ci si affermava, e quindi lui si sentiva in qualche modo un paladino. C'era qualcuno, non è il caso del debole, però poi quando uno è accecato, certo, ci va di mezzo il buono, ci va di mezzo quello che ti ha dato fastidio. Sì, infatti ogni situazione va un pochino analizzata a sé, secondo le circostanze, secondo quello che è successo. Sono tante le cose da tenere in considerazione, soprattutto perché quando parliamo di persone giovani, di adolescenti, di bambini o poco più, insomma, effettivamente non può venire dal niente. Ci deve essere una ragione che ha scatenato il tutto. Certo, e poi io pensavo anche che al di là della vittima e del carnefice c'è tutto un mondo, cioè prendiamo una classe dove ci sono, che ne so, un paio di bulli e c'è una vittima, ma poi c'è tutto il resto della classe che fa questo resto. Allora è probabile che molti di questi ragazzi istintivamente siano attratti dal bullo, perché il bullo è quello, diciamo, vincente, o almeno vincente sul momento, e quindi invece di prendere posizione, ovviamente mi auguro che lo facciano, ma invece di farlo è probabile che senza rendersene conto ammirano i bulli. Quindi alla fine i bulli, sì, ci sono gli autori, diciamo così, materiali, ma ci sono tutti gli altri che si fanno, tra virgolette, trascinare, i complici. I complici che non sono da meno. No, o anche tu dici effettivamente che l'ammirano, oppure dicono: ah, guarda quello lì, che figo, che bravo, eccetera, eccetera. Ma anche una buona parte che ha paura, perché loro possono anche pensare: come se la sono presi con qualcuno che è più debole, se io reagisco, me gonfiano pure a me, diciamoci la verità. Dunque, sì, diciamo che c'è una sorta di pseudo-ammirazione, ma anche di terrore. Dunque, il bullo, ecco, diciamo che incide non solamente sulla sua vittima diretta, ma diciamo che riesce a fare, è come il sasso che viene buttato in un lago, no? Diciamo che la sua sfera di influenza in diversa maniera si allarga. Dunque, però io penso che sia compito di coloro che non sono vittime psicologiche e fisiche dei bulli, soprattutto degli adulti che sono insieme, che sono intorno, doversene accorgere anche e di dover dire qualche cosa. Forse anche noi di famiglia dovremmo, sai, noi siamo mamme, siamo sempre pronte a giustificare i figli, qualcosa è chiaro. Questo sì, però sì, non so, io molte volte mi sono detta come si è sentita, io mi sono sentita male come madre di vittima, però non so se come mamma del carnefice, se io mi sentirei più tranquilla, perché io no, dico, assolutamente, cioè io dico questo, questa volta ha fatto così, no? Ma quando sarà più grande, fino a che punto arriva? Io avrei paura dei limiti che non si è imposta la morale di un mio figlio. O no? Indubbiamente. Sì. Allora, è venuto il momento di fare un'altra pausa musicale. Ci ritroviamo fra pochi minuti. Mi raccomando a tutti i radioascoltatori, restate con noi fino alle 22, ovviamente anche oltre se volete, ma sicuramente fino alle 22, e ci ritroviamo fra poco. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci ritornati a chiacchierare, sono le 21.45 dell'8 dicembre 2014 e stiamo parlando di bullismo. Allora, io però prima di concludere un po' su questo argomento, volevo chiedere a Fiorella di raccontarci una iniziativa che sta organizzando. Sì, no, non è che lo organizzo io, lo organizza come al solito la VAI, la Volontaria Assistenza Italiana. E tu di che fai parte? Della VAI, eccomi qua. Volontarie Assistenza Italiani. Presente. Dunque, grazie all'aiuto, un'iniziativa, cioè alla sensibilità dell'Istituto di Cultura, il 16 dicembre andrà in scena cioè ci sarà il solito film che normalmente viene proiettato il lunedì, tutti i lunedì, l'Istituto di Cultura. Per lo sciopero sarà proiettato il martedì e il ricavato, tutto il ricavato verrà dato alla VAI. Il film è molto simpatico per le famiglie, come al solito è Sotto una buona stella di Carlo Verdone, dunque io da romana parteggio perché venite. Ricordatevi che il ricavato sarà dato alla VAI, in più le nostre volontarie della VAI allestiranno un buffet, voi sapete benissimo che il buffet che si mangia benissimo, che si mangia benissimo e chi non viene. Ci sono gli arancini. Sì cara, gli arancini pizzini. Sette frittatone e tutto quanto, un altro attacco di colesterolo da parte mia, forza di cucinare. E poi c'era un piccolo come dire mercatino di Natale, molto piccolo, molto ristretto, però noi ci siamo. Tra l'altro, se posso dire, il mese di gennaio avremo anche un altro bel progetto che molto probabilmente andrà in porto. È un pranzo con tutti quanti gli anziani, dunque gli anziani di una certa età e tutto quanto. La VAI finanzierà una parte degli anziani che non possono pagare e sarà il quadro molto bello perché il ristorante, se ci confermano quello che abbiamo prenotato, sarà allo chalet Robinson dell'isola del Bois de la Combe. Dunque piccola bella cosa, questi quasi, dunque questo è anche un'escapade, poi chissà se poi rientro sulla terraferma, li lasciamo lì, non lo so, però siete andati voi all'isola di Robinson? Ti ha portato? No. La prossima volta dovevamo lasciare qualcosa per la prossima. Sono state solo due giorni. Che vuoi fare? Stavolta hanno fatto il giro classico. La prossima farà le particolarità. Dunque, aspettiamo tante persone, tutte quelle che ci ascoltano. Il 16 venite, non costa molto il film, bisogna prenotare sul sito dell'Istituto di Cultura, vi aspettiamo, c'è un buon buffet dopo, ci facciamo gli auguri di Natale tutti quanti ed è un piccolo dono che voi fate alla VAI. Bene, e soprattutto di un aiuto per noi che possiamo andare avanti. Esatto, quindi cerchiamo di sostenere questa attività. Le forchette ce l'abbiamo noi. Le forchette ce le avete, se no ce le portiamo da casa, non ci sono problemi. La forchetta l'abbiamo sempre. Allora, quindi ripetiamo, martedì 16 dicembre alle ore 19 presso l'Istituto Italiano di Cultura, rue de Livourne 38. Bravo, mi raccomando, prendete no. Le sa. Ti ascolto, ascolto Radio Alma. Allora, ritorniamo quindi al bullismo e Anna Maria. Allora, io ho cercato un pochino qualche testo, qualche libro che potesse parlare dell'argomento. In effetti ce ne sono diversi, ce ne sono parecchi a dir la verità, forse perché il fenomeno prende un'ampiezza tale. E quindi ho trovato, per esempio, questo libro che si chiama Il gioco crudele, studi e ricerche sui correlati psicologici del bullismo. Dunque, gli autori di questo volume non si sono proposti di identificare le cause del bullismo, ma di studiare i correlati psicologici del fenomeno, di cui sono stati portatori i principali attori. Quindi, in definitiva, la domanda a cui si cerca di fornire una risposta sono le domande, chi sono i bulli e le vittime? Com'è strutturata la loro area di intersezione tra strategie cognitive ed emozioni a valori morali? Come vivono i rapporti familiari e quelli all'interno della classe? E questo è un argomento di cui parlavamo prima, mentre non ci sentivate. E questo è uno dei libri, insomma, che vede il bullismo da questo punto di vista. Poi quello che dicevi anche tu, Rosanna, c'è un altro libro che si chiama Ciberbullismo, ricerche e strategie di intervento, e qui c'è il rapporto uomo-macchina. La prima parte del testo propone una nuova visione dell'uso positivo e negativo delle tecnologie, perché dobbiamo imparare a usarle, anche questo lo dicevamo prima, additandone i possibili fattori di rischio, in particolare le caratteristiche di una nuova forma di aggressione elettronica, quindi il ciberbullismo. Poi la seconda parte del volume offre una panoramica europea di buone pratiche utili per confrontarsi con i problemi che l'uso della rete e le condotte aggressive online oggi comportano per adolescenti ed adulti, perché non ci dimentichiamo che anche gli adulti rimangono intrappolati nel sistema. Quindi questo libro vuole essere uno strumento utile a ricercatori, educatori, psicologi, genitori, insegnanti e adolescenti che desiderino approfondire la loro conoscenza sulle forme di aggressività presenti in adolescenza e confrontarsi con le più nuove strategie di intervento presenti in Italia e in Europa. E questo è il ciberbullismo. Poi scusate, giro pagina. Lo so che non lo devo fare. Prego, comunque lo devi fare discretamente. Vabbè, questo è lo spazio che abbiamo. Poi abbiamo un altro libro che si chiama Ragazzi fuori, bullismo e altri percorsi devianti tra scuola e spettacolarizzazione mediale, che anche qui torniamo sul discorso dei multimedia. Quindi nella società dello svuotamento dei valori e della crescente perdita dei punti di riferimento, i media sembrano interessarsi ai giovani soltanto quando sono protagonisti di delitti efferati o di episodi di violenza nei confronti di persone e cose. E qui vorrei dire una cosa. È vero che, come diciamo sempre, il bullismo c'è sempre stato, le cose, ma mi sembra che si fa un po' spettacolo di tutte le tragedie. Ma perché mai non si parla di altre cose ogni tanto? Perché questo secondo me non aiuta, adesso correggetemi se sbaglio, però non aiuta i nostri ragazzi a vedere solo cose negative. Vabbè, questa chiudo la parentesi. Ma forse i bulli vogliono proprio quello anche, tra l'altro, facciamo il gioco. Ma il bullo non è in grado di sapere quello che vuole, credo. Quando uno è un adolescente, cioè no, sono gli ormoni che impazziscono. No, ma colui che fa un atto violento, molte volte ci gode, perché il cyberbullismo, quelle cose lì, è il fatto non solamente di farlo, ma di metterlo in rete, che tutti quanti lo sappiano. Dunque noi effettivamente, facendo proprio un gran cancan di da questo, non facciamo altro che fare il gioco loro. Esattamente. Sì, ma forse perché non abbiamo altri temi, non abbiamo altre cose. No, forse perché no, perché non fa più notizia. Perché fa più scena, diciamo, perché che è anche più... la morale nel giornalismo, perché effettivamente quello che si propone. Sì, qui facciamo un'altra trasmissione, però. Sì. Noi no, noi siamo giornalisti, facciamo trasmissioni serie. Allora, poi abbiamo altri testi, non so se abbiamo il tempo di dirli, non so, ce n'è uno sugli interventi antibullismo, è un testo che fornisce una panoramica dei programmi antibullismo più diffusi a livello nazionale e internazionale, costituendo un'utile lettura per gli studenti, dirigenti scolastici, insegnanti, quindi vediamo che ora si cominciano proprio a studiare le situazioni e cercare di aiutare e sostenere, perché tu parlavi degli insegnanti appunto che si erano trovati di fronte a questa situazione e magari non sapevano neanche qual era il metodo migliore. Sì. E quindi c'è un'evoluzione anche in questo senso. E poi ce n'è un altro che si chiama Né vittime né prepotenti, una proposta didattica di contrasto al bullismo. E questo dice appunto, a proposito di bullismo, sono in molti a ripeterlo, c'è sempre stato. Sì, forse sarà vero, ma non per questo le ferite del bullismo sono meno gravi. Semplicemente oggi abbiamo più consapevolezza ed è positivo. Ben venga dunque l'attenzione al fenomeno, purché non tutto divenga bullismo. Quindi non focalizziamo tutto e non diciamo che tutto è bullismo. Allora, grazie. E dunque, siamo quasi alla fine. Io vorrei cominciare con i saluti. Comincio da Rosaria. Rosaria, grazie. Grazie di essere venuta. Ci hai trattato benissimo, siamo contentissime, è stata una bella esperienza anche di questa sera. Allora, e poi Rosaria, lo dico a te, ma lo dico naturalmente anche ai radioascoltatori, le trasmissioni nostre dopo qualche giorno le carichiamo su un sito blog della radio che si chiama radioalma.eu/icoloridell'anima, tutto attaccato. E quindi andando lì si vedono tutte le trasmissioni che abbiamo fatto e potrete quindi risentirvi. E anche da Lanciano ci saremo. Va bene, grazie. Grazie Rosaria. Grazie Patrizia. Grazie a voi, è stata un'esperienza bellissima. Ti ringrazio di tutto, spero di tornare presto. Ecco, molto bene. No, a trovarti. Adesso siete venute da sole, mie compagnucce, ma insomma vi invito anche con le vostre famiglie a venire quando vorrete. Grazie. Allora, grazie a Rita, che poi di voi tre è quella che è intervenuta un po' di più. È l'avvocato. La chiacchierona. Mi sono sentita molto cittadina europea in questi due giorni, poi stasera tantissimo, quindi grazie una cosa nuova. Grazie a tutti. E grazie a Fiorella che appena ti chiamiamo subito pronta, di qualsiasi argomento tu hai sempre comunque qualcosa da dire e ci fa molto piacere. Vi ringrazio, io zacca, io ciaccolo subito perché mi piace chiacchierare. Posso approfittare a fare gli auguri di Natale, buone feste, buona Befana? Velocemente, sì. Buona Befana, ho saltato Natale, Capodanno e tutto qua. Va bene. Va bene, grazie ancora a voi. Grazie, noi invece ricordatevi ci saremo ancora lunedì prossimo, il 15. Quindi anche con Anna Maria naturalmente. Certamente, buonasera a tutti, grazie ancora Rosanna, buonasera, grazie a tutti gli ospiti che ci sostengono sempre, che vengono per darci anche un sacco di spunti. Grazie. E appunto lunedì saremo invece vari animatori dei colori dell'anima, che quindi faremo la trasmissione conclusiva prima della fine dell'anno e poi riprenderemo il 5 di gennaio. Ma comunque rimanete con noi, naturalmente con Radio Alma, con i colori dell'anima, e alla prossima volta. Buonasera a tutti. Alla prossima, buonasera. Buonasera.